Allora, che cosa ha il mercato del sale in programma quest'anno come mostre? Leggo l'elenco di fila, ti do l'elenco, io i nomi che vengono fatti sono, te li vuoi scrivere, forse Carlo questo ti conviene. Chimocchino. Questi sono i poeti, diciamo, gli autori. Questi autori si possono riportare tutti sotto la sigla di scrittura visuale o di nuova scrittura, oppure ci sono anche altri tipi di operatori? A partire da quest'anno, per tentativo di non chiudere la galleria in una specializzazione definita e definitiva, la galleria presenterà anche autori di esperienza di ricerca, ma non solo nell'ambito della poesia visuale o della nuova scrittura, come possono essere Silvia Guberti, Leonardo Mosso, e al limite anche Armando Marocco. Le altre persone, in un modo o nell'altro, rientrano senz'altro per l'esperienza che vanno portando avanti nell'ambito della nuova scrittura. Tu hai parlato di scrittura visuale o è di nuova scrittura? Cosa intendi esattamente con queste formule? Per necessità di, cioè per mancanza di spazio, è abbastanza difficile dare una definizione delle differenze che intercorrono sotto varie sigle che sono state utilizzate. È quindi abbastanza evidente che io stesso, utilizzando scrittura visuale a livello sinonimico con nuova scrittura, in questo caso con nuova scrittura intendo ciò che è stato condotto come operazione anche un po' ecumenica dal mercato del sale, con la mostra inaugurale della stagione dell'anno scorso, Raccolta italiana di nuova scrittura, in cui sotto questa sigla, invece di portare avanti un discorso teorico fondato da Ugo Carrega, ti dico perché, da Ugo Carrega al mercato del sale a partire dal 74, anche se la sua teoria risale al 67, si tentava invece con questa sigla di fare questa operazione allargata per abbracciare tutti i colori derivanti da ambiti diversi, operassero anche nel segno scrittorico sulla pagina. Anche qui breve, brevissima, no? Questa è una cosa un po' mia. Ecco, di solito con scrittura visuale si intende, cioè si è parlato anche di poesia visuale, e con questa operazione, chiamata anche scrittura visuale o nuova scrittura, si intende una forma di poesia, della poesia sui generis. Gli operatori di questo settore si definiscono poeti. Ecco, questo mi lascia un po' perplesso. Secondo me, questa tendenza fa parte di una delle tante tendenze, non diciamo le più commerciali, le più effimere, ecco, no? È una tendenza tra le più serie, molto probabilmente, ma che riguardano la storia dell'arte, riguarda l'ambiente delle arti visive, quindi delle gallerie, quindi anche del mercato. Ecco, accanto a questa c'è la poesia che si definisce lineare, eccetera. Io non so, cioè comunque tu vuoi sapere da me perché viene utilizzata la parola poesia all'interno della poesia visuale, eccetera. Più che altro io vorrei puntualmente mettere a fuoco che c'è una distinzione netta tra le due cose, anche se viviamo momenti di interdisciplinarità, Per eccetera. quanto mi concerne specificatamente, io non ho mai utilizzato il termine poesia. Ho utilizzato a partire dal 65 con la rivistina Tool il termine scrittura simbiotica e a partire dal 67, poi dal 74 esattamente con il mercato del sale, la sigla di nuova scrittura. Però ritengo che non sia un abuso il termine poesia nella poesia visuale proprio per l'origine etimologica della parola. Poesia deriva da poiesis o da poiein, dal verbo che vuol dire fare. Nello stesso modo, la poesia trobadorica, a cui si rifanno anche tutta la grande scuola italiana, dalla scuola siciliana alla scuola fiorentina del Dolce Stil Nuovo, utilizzando il termine trobador, deriva di nuovo da trovare, cioè cercare, cioè fare, fare versi. Quindi la sigla poesia, utilizzata in una dimensione oramai codificata dall'uso letterario, può apparire improprio, ma rivalutando il termine poesia, come hanno fatto anche i poeti americani, Olson stesso nel suo verso Respiro parla di un verso che è un'attività, Quindi in questo senso penso che vada bene anche l'utilizzazione della poesia, del termine poesia. Per quanto concerne l'essere entrato nelle gallerie, quindi nel mercato, da parte della poesia visuale, perché io dissento sul fatto che la poesia visuale dipenda da un fare appunto dipendente appunto dalle arti plastiche, per capirci, io ritengo invece che parta da altre origini, qui il discorso diventerebbe lunghissimo. Dico, comunque, l'entrare in questi spazi delle gallerie ed eccetera è stato l'unico spazio che avevamo per poter lavorare. Non è una necessità, è un dato di fatto. Tre alberi in uno spazio piccolo non escono, crescono due soltanto, così per la poesia visiva, visuale, eccetera. Ecco il discorso, sì. Ecco, un'altra cosa che mi lascia perplesso è l'entrata di questo genere, diciamo, di poesia nel quadro. L'uscita dal libro per entrare nel quadro. Non ti sembra che adesso sia arrivato il momento di lasciare ancora il quadro e ritornare o al libro o ad altre forme, ad altri media al limite? Beh, qui è di nuovo il discorso, molto preciso, che io vado portando avanti e che purtroppo non sono riuscito a diffondere. Cioè, il problema non è tanto il libro o la pagina o queste questioni, ma il fatto che un certo tipo di materiale nel libro non può starci più. Per cui una sorta di poesia materica, chiamiamola, che utilizza la sensibilità delle, e quindi il significato delle materie, con materie intendo dalla, per esempio la differenziazione dei supporti o l'inserimento di altre materie che non sono strettamente linguistiche, che cioè hanno una corposità che non permette l'inserimento di queste corposità dentro a un libro, automaticamente è questo meccanismo che ha fatto sì che la poesia non uscisse soltanto dal libro per una necessità sociale, pragmatica, di farsi vedere, ma proprio per una necessità interna. Davvero, io sto facendo una rivista che sarà una rivista, che sarà una rivista oggetto, perché i materiali che verranno prodotti dai vari autori non possono essere contenuti in una rivista tradizionale.